tra lucori di tutto e non la spicciu di cantari. Musica amo, fammi tu favori, non morire senza te non posso stare. Musica noni, non mi abbandonare, stricchi rimo sotto la zucca ti porto a ballare. Musica non mi raculo la pari, metti pace in questo mondo che non si può più campare. Vai tu tutti e tutti vanno pietà sotto, sì la musica è mignotta, non la futti mai in ciscata. Mo sfurnamo un'altra cotta, cutti trasi tra lu sangue, entra da cazzo di calotta. Mo dammi un'altra fetta, che non mi ben più noni, non ci riamo mai la frutta, ne imbriagamo questo suono che nessuno mai ci scelta. Lo ritmo sa di droga, ma li wecchi non li butta, li veni li scatta senza manco una lametta. Lucy le tali controlli sparpaglia melodie, mentre in ballo con la bagnona le sento tutte mie. Musica vera, musica sana, musica non strana, musica di ogni colore, specialmente giamaicana. Io non discendo all'aria, sta abitazione, si è musica africana, la che non scusta canzone. Ritmo battere e levare con lo basso potente, a non mi piace la musica, non pudimo fare niente. Musica, mi trasi tra lucori, da di tutto e non la spiccio di cantare. Musica, mo fammi un favore, non morire senza te non posso stare. Musica, noni non mi abbandonare, zicchi di mo sotto la zucca ti porto a ballare. Musica, non mi raculo l'affari, metti pace in questo mondo che non si può più campare. Non c'è un buon aggettivo con cui possa definire la bellezza della musica che a tutti fa impazzire. C'è cinca la gente con una bada niente, gira sta zona e spera come buona. Cica sta palle, sta cica canta, gira poi fammene cue da zicampe. Dammi musica, musica, sempre che musica entra alla capo mia. Metti una base, canta gritando e vedi fino a dormire. E ci non sa mi cantare, vedi non picca, c'è poi pari. Mamo balla qua con noi per tutto il giorno e prego e pari. Mentre la giornata che c'è tosse un po' bucata, dice papà che voglio un facima, se passi casa. La musica mi piglia, stai sicura una malassa. Ma fai che stasera te me ne sto a facima ambressa. Tutto quando fai casina me ne ca nessuno è festa. Yes, su sui una trace, yes, yes, la te ormai una S. Barbie drop in di flash, tu sui una mama flash. Ma fai a di adesso, pa mona già fresh. Ma crash, crash, musica mi trasi tra lucori, a di tutto e non la spiccio di cantare. Musica, mo fammi un favore, non morire senza te non posso stare. Musica, noni non mi abbandonare, zicchi di mo sotto la zucca ti porto a ballare. Musica, non mi raculo l'affari, mi si faccio in trash tu mondo che non si può più campare. Siamo insieme con mare compare, la musica suona non posso mancare. Parliamo la danza che è modo ospitale, la notte è longa, aspettiamo lo sole. Il sole mi brucia, la luna mi bronca, cucchia di ballamo tutti tra la danza. La musica è vera, la musica è pura, nessuno tra leva, sta cosa è sicura. Sicuro, sicuro, la musica è buona, lo puoi non lo metti, lo vengo, lo sana. Non mi fermo più, c'è la base qua, sono a posto, uscirà, anzi viene settimana. Vista settimana la danza è spicciata, picco da capelli, notte una giacchiata. Non giro di qui come un'altra ballata, vista di limane, picco questa suonata. Musica, mi trasi tra lucori, a di tutto e non la spiccio di cantare. Musica, mo fammi un favore, non morire senza te non posso stare. Musica, noni non mi abbandonare, zicchi di mo sotto la zucca ti porto a ballare. Musica, non miracolo l'affari, metti pace in trash tu mondo che non si può più campare.